Satana insorse contro Israele e sedusse Davide perché facesse il censimento di Israele. Davide ordinò a Joab e ai principi del popolo: andate, contate gli israeliti da Bersabea a Dan, quindi fatemi il rapporto perché conosca il loro numero. Joab rispose: il Signore aumenti il suo popolo 100 volte tanto. Ma non sono forse tutti, o mio Signore, servi del mio Signore? Perché il mio Signore fa questa inchiesta? Perché si dovrebbe imputare una colpa ad Israele? Ma il comando del re prevalse su Joab, il quale, partito, percorse tutto Israele, quindi fece ritorno a Gerusalemme. Joab consegnò a Davide il numero del censimento popolare. Tutto Israele contava 1.100.000 uomini capaci di maneggiare la spada. Giuda aveva 470.000 uomini atti al maneggio della spada. Fra costoro Joab non recensì i Leviti né la tribù di Beniamino, perché l'ordine del re gli sembrava abominevole. Il fatto dispiacque agli occhi di Dio, il quale perciò colpì Israele. Davide disse a Dio: ho peccato gravemente compiendo questa azione. Ora perdona di grazia la colpa del tuo servo, giacché ho agito con grande stoltezza. Allora il Signore parlò così a Gad, veggente di Davide: va a dire a Davide, così dice il Signore, ti propongo 3 cose. Scegliti una di queste, ed io te la realizzerò. Gad si presentò a Davide e gli disse: così dice il Signore, scegliti o 3 anni di carestia, ovvero 3 mesi di fuga per te davanti ai tuoi nemici sotto i colpi della spada dei tuoi avversari, ovvero 3 giorni di spada del Signore, ossia la peste nel paese, con l'angelo del Signore che porta lo sterminio in tutto il territorio di Israele. Decidi ciò che debbo rispondere a colui che mi manda. Davide disse a Gad: sono molto angustiato. Possa cadere nelle mani del Signore, la cui misericordia è grandissima, ma che non cada nelle mani degli uomini. Così il Signore inviò la peste in Israele. Caddero 70.000 israeliti. Dio mandò un angelo in Gerusalemme per sterminarla. Mentre egli stava per sterminarla, il Signore volse lo sguardo e si pentì della sciagura minacciata. Egli disse all'angelo sterminatore: ora basta, ritira la tua mano. L'angelo del Signore stava ritto presso l'aia di Ornan, il Gebuseo. Davide alzò gli occhi e vide l'angelo del Signore, che stava ritto fra terra e cielo, con in mano la spada sguainata e puntata verso Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani vestiti di sacco caddero con la faccia a terra. Davide disse a Dio: non sono forse stato io ad ordinare che si facesse il censimento del popolo? Io ho peccato e commesso il male, mentre costoro, il gregge, che cosa hanno fatto? Signore Dio mio, la tua mano sia sopra di me e la mia famiglia, ma non colpisca il tuo popolo. Allora l'angelo del Signore ordinò a Gad di dire a Davide che salisse ad erigere un altare al Signore nell'aia di Ornan il Gebuseo. Davide vi salì, secondo l'ordine di Gad, comunicatogli in nome del Signore. Ornan si voltò e vide l'angelo. I suoi 4 figli che erano con lui si nascosero. Mentre Ornan stava battendo il grano, Davide gli si avvicinò. Ornan guardò e, riconosciuto Davide, uscì dall'aia e si prostrò davanti a lui con la faccia a terra. Davide disse a Ornan: «Cedimi il sito dell'Aia, perché vi possa costruire un altare al Signore. Cedimelo per tutto il suo valore, di modo che il flagello cessi di infierire sul popolo». Ornan disse a Davide: «Prenditelo. Il re mio signore ne faccia ciò che gli sembra bene. Ecco, in più ti offro i buoi per gli olocausti, le trebbie per la legna ed il grano per l'oblazione. Io offro tutto». Il re Davide rispose ad Ornan: «No, voglio acquistarlo per il suo pieno valore in denaro, giacché non intendo prendere ciò che appartiene a te per offrirlo al Signore in olocausto gratuitamente». Davide diede ad Ornan per il terreno il prezzo di 600 sicli d'oro. Quivi Davide eresse un altare al Signore, vi offrì olocausti e sacrifici pacifici ed invocò il Signore, il quale rispose con il fuoco disceso dal cielo sull'altare dell'olocausto. Allora il Signore ordinò all'angelo, e questi rimise la sua spada nel fodero. In quel tempo, vedendo Davide che il Signore l'aveva esaudito nell'aia di Ornan il Gebuseo, offrì ivi un sacrificio. La dimora del Signore, eretta da Mosè nel deserto, e l'altare dell'olocausto si trovavano in quel tempo sull'altura di Gabaon. Ma Davide non osava recarsi colà per consultare Dio, perché aveva avuto molta paura davanti alla spada dell'angelo del Signore.